con Francesca Muci, regista del documentario La casa dei bambini, in uscita in sala il 5 febbraio 2019. Francesca, ben trovata. Ben trovata voi, grazie per l'ospitalità. Ci presenti questo lavoro? Sì, con molto piacere. E questo lavoro è nato qualche anno fa, durante un altro lavoro che avevo fatto in Terra Santa. Ho conosciuto questo kibbutziano, un autore storico, insomma, ha fatto tanti documentari importanti con Moravia, con Biagi, e aveva questa storia da raccontare che insomma risale agli anni, parliamo tra il 45 e il 48, una storia di grande accoglienza italiana. Circa 800 bambini vengono salvati in questo piccolo comune lombardo e riportati alla vita, bambini sopravvissuti all'orrore della Shoah che in Italia ritrovano proprio il senso di essere umani, come loro stesso hanno dichiarato. Quindi una storia veramente moderna, di grande proprio disegno di accoglienza e di grande speranza anche, una delle poche storie felici sull'Olocausto. Appena hai saputo di questa storia, come hai cominciato a muoverti? Il lavoro, guarda, più complesso è stato proprio la ricerca, perché questi protagonisti ormai che hanno tra gli 80 e i 90 anni, purtroppo molti sono già venuti a mancare, altri anche durante già il lavoro di ricerca di sopralluoghi, purtroppo li abbiamo persi. Quindi ho cercato di ripercorrere con loro quella che era la loro vita prima del grande distacco dalle loro famiglie e quello che accadeva dopo, una volta arrivati in Italia, prima di riprendere poi la loro vita in Israele, perché molti di loro poi sono stati grandi fondatori dello Stato di Israele. Quindi è un lavoro di ricerca importante. Ho girato su e giù per l'Israele, nei vari kibbutz, nelle varie case famiglia che loro hanno. Quindi è stato proprio un lavoro di, ecco, entrare nei loro ricordi, nelle loro memorie più profonde e devo dire lavoro umanamente proprio che mi ha dato una soddisfazione pazzesca. Quante persone hai contattato? E tante, tante, io ne ho incontrati quasi una trentina, poi ovviamente ho dovuto insomma scegliere le storie più significative, quelle in cui anche c'era una facilità di, proprio di comunicazione, anche di empatia, perché per molti era complicato parlare, chi aveva troppa emozione, chi purtroppo è venuto a mancare durante le riprese, quindi sì, alla fine insomma ho scremato 10-15 protagonisti. E molti, insomma, purtroppo non sopravvivono più, per cui è stato difficile anche quello. Quanto è durata questa esperienza e che tipo di esperienza è stata questa casa? Sono stati 3-4 anni quelli più importanti, di attività proprio forte e reale lì a Selvino. Perché poi man mano venivano preparati, a tutti questi bambini veniva insegnata comunque un mestiere e venivano preparati alla partenza in Israele, quindi era un modello proprio diciamo produttivo dell'accoglienza e del rimpatrio, anche in patria per la prima volta, perché molti venivano la maggior parte dalla Polonia o dall'Ungheria. Quindi veramente quasi militare come impostazione era quella che aveva creato questo direttore d'orchestra lungimirante, che era poi la mente di tutto, Moshe Zairi. Noi abbiamo incontrato anche la figlia che ci racconta di questo disegno del padre, un disegno per lui quasi utopistico, che in realtà si è realizzato nella maniera proprio più reale e bella possibile. Quindi sì, 3 anni, il 45, dal 45 al 48 sono gli anni più importanti, durante il quale appunto transitarono oltre 800 bambini. La struttura infatti non riusciva più a contenere questo numero così elevato di bambini che continuavano ad arrivare. Quindi man mano che ne arrivavano alcuni, altri venivano imbarcati per l'Israele. Come hai strutturato il documentario? Ecco, come dicevo prima, io l'ho strutturato partendo proprio dalla memoria di quella che era la vita di questi bambini. Parliamo di bambini molto piccoli, dai 3, considera che la più grande aveva 15 anni, infatti era considerata la mamma, era quella che faceva da mamma agli altri bambini, quindi si tratta proprio di, diciamo, di prima infanzia. Per cui cercavo di ricordare con loro appunto com'era la loro vita prima, nella loro famiglia, da dove venivano prima del grande distacco, che era appunto un distacco militare, un distacco proprio armato, un distacco, quindi un arrivo della morte, che proprio si verificava nel momento in cui questi bambini rimanevano completamente da soli al mondo. Molti ci hanno raccontato di aver vagato nei boschi, di aver mangiato patate piuttosto che bacche, piuttosto che radici per sopravvivere proprio, per riuscire a sopravvivere proprio. Quindi fino a quel momento, poi l'arrivo in Italia, l'arrivo a Selvino e la rinascita di una nuova vita prima della partenza in Israele. Ho seguito questa struttura e poi mi sono aiutata anche dalla voce di due seconde generazioni, quindi dei due figli, Avi e Tami, figli di bambini sopravvissuti che non ci sono più, che vanno alla ricerca di questo luogo che i loro genitori le avevano sempre raccontato che fosse il loro luogo del cuore. Quindi attraverso gli occhi di questi due figli noi scopriamo quello che hanno vissuto i loro genitori. Che tipo di distribuzione sarà? Allora, Istituto Luce, il distributore, ha cominciato appunto una distribuzione nelle sale, sono molto contenta. Già vedere un interesse così forte per un documentario davvero ti riempie di speranza, perché c'è voglia di ascoltare e di conoscere ancora. Quindi noi cominciamo dal nuovo Cinema Aquila e poi cominciamo un piccolo tour Milano, Bologna, Bergamo e Selvino ovviamente, e credo insomma che continuerà in alcune sale in Puglia. Insomma, pare che ci sia un bell'interesse, quindi mi auguro tanto che cresca. Benissimo, allora ricordiamo il documentario La casa dei bambini in uscita in sala 5 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Francesca Muci. Un abbraccio, Grazie un in bocca al lupo, a risentirci presto. a voi. Crepi il lupo, a presto, buon lavoro, buona giornata, grazie.